Capitolo 7. Ebbene, Fanny, come giudichi Miss Crawford ora? Chiese Edmond il giorno seguente dopo aver alquanto meditato lui stesso sul problema. Ti è piaciuta ieri sera? Oh, molto, davvero moltissimo. Mi piace sentirla parlare, mi diverte. Ed è talmente graziosa che è un vero piacere guardarla. È il suo modo di fare che la rende così attraente, ha un viso così espressivo. Ma non c'è stato nulla, Fanny, che nella sua conversazione ti abbia colpita come una dissonanza? Oh, sì, non avrebbe dovuto parlare dello zio come ha fatto, ne sono rimasta sbalordita. Uno zio in casa del quale ha vissuto per tanti anni e che, quali ne siano i difetti, è tanto affezionato a suo fratello e lo tratta, a quanto dicono, proprio come se fosse suo figlio. Non riuscivo a crederci. Pensavo che ne saresti stata colpita sgradevolmente, è stata una cosa molto impropria, molto sconveniente. E anche un segno di ingratitudine, direi. Ingratitudine è un termine pesante, non mi sembra che quello zio abbia un qualche diritto alla sua riconoscenza. La moglie certamente sì. Ed è evidentemente il tenero rispetto che porta alla memoria della zia che l'ha fuorviata. La sua posizione non è facile. Col calore di sentimento e con la vivacità di temperamento che le sono propri, deve essere difficile per lei mantenere un giusto equilibrio fra l'affetto che prova ancora per Mrs. Crawford e il biasimo con cui considera l'ammiraglio. Non ho la pretesa di sapere di chi, nei loro contrasti, sia stato il torto maggiore, benché l'attuale comportamento dell'ammiraglio induca a prendere le parti della moglie, ma è naturale e gentile che Miss Crawford voglia scagionare completamente la zia. Non critico i suoi sentimenti, ma vi è una certa improprietà nel manifestarli in pubblico. Non pensi, disse Fanny dopo aver considerato alquanto la cosa, che questa improprietà si rifletta negativamente su Mrs. Crawford, visto che la nipote è stata interamente educata da lei? Non le ha dato una netta nozione di quanto era dovuto all'ammiraglio. È una giusta osservazione, sì, dobbiamo supporre che i difetti della nipote siano stati gli stessi della zia, e questo fa meglio capire le pecche che risultano da una errata educazione. Ma penso che l'ambiente familiare in cui ora è inserita le gioverà. I modi di Mrs. Grant sono impeccabili e un punto a favore di Miss Crawford è certo da rinvenirsi nell'affetto con cui parla del fratello. Sì, eccetto quando critica le sue lettere così corte. Mi ha quasi fatta ridere, ma non posso dare tanto credito all'affetto o alla gentilezza di un fratello che non si dà pena di scrivere qualcosa che meriti di essere letto dalla sorella lontana. Sono sicura che in nessuna circostanza William mi avrebbe trattata così. E che diritto aveva di supporre che tu non scriveresti lunghe lettere se mai fossi assente? Il diritto di uno spirito tutto vivacità, Fanny, pronto ad afferrare a sfruttare ogni cosa che può contribuire al divertimento proprio e altrui, il che è perfettamente lecito quando non gli si dà il tono di un astio e di una rudezza che non trovano il minimo riscontro nell'espressione e nei modi di Miss Crawford, dove nulla è eccessivo o pungente o volgare. Si è sempre rivelata perfettamente femminile, tranne che nei due casi di cui abbiamo parlato. Lì non ha alcuna giustificazione. Mi fa piacere che tu li abbia notati come ho fatto io. Poiché era stato lui a formare la mente della cugina e se n'era conquistato l'affetto, era più che naturale che Fanny la pensasse al modo suo, anche se allora e proprio su questo punto cominciava a profilarsi il pericolo di una divergenza. Edmund, infatti, si era messo su una china che lo conduceva a una grande ammirazione per Miss Crawford, cioè a una meta dove Fanny non lo poteva seguire. Né le attrattive di Miss Crawford diminuirono col procedere del tempo. L'arpa arrivò e aggiunse nuovo fascino alla bellezza di lei, alla sua prontezza di spirito e alla sua naturale gaiezza. Era sempre pronta a suonare a richiesta, con grande compiacenza, con una espressione, un gusto che le si addicevano particolarmente. E sempre, alla fine di ogni pezzo, provava da dire qualcosa di intelligente e di brillante. Edmund si recava alla canonica tutti i giorni per bearsi alle armonie del suo strumento prediletto e ogni visita mattutina gli valeva un invito per la mattina successiva, poiché la giovane non era certo restia ad accogliere un così attento ascoltatore. Così il loro rapporto si avviò ben presto a una maggiore intimità. Il quadro formato da una giovane donna graziosa, vivace, seduta accanto ad un'arpa elegante quanto lei, Sullo sfondo di una porta finestra aperta su un piccolo prato dall'erbetta rasa, circondato da cespugli lussureggianti di estivo fogliame, poteva ben irretire un cuore maschile. La stagione, il tepore dell'aria, il paesaggio formavano un insieme fatto per fomentare la tenerezza, per rinsaldare il sentimento. Mrs. Grant e il suo telaio a tamburo non erano di troppo nel quadro. Tutto era in armonia. E siccome ogni particolare acquista importanza quando nasce l'amore, perfino il vassoio dei sandwich e il dottor Grant, che ne facevano gli onori, meritavano di fissarvi lo sguardo. Dopo una settimana di questi incontri, Edmund, pur senza analizzare la situazione né pensare a quanto andava prendendo forma in lui, cominciò a innamorarsi seriamente. E per rendere giustizia a Miss Crawford, possiamo aggiungere che, benché egli non fosse un giovane di mondo o un primogenito, senza che ricorresse alle arti della lusinga o si segnalasse per spigliata gaiezza nella conversazione spicciola, egli incominciò a piacerle seriamente. E lei lo sentiva, anche se non lo aveva previsto, e a stento riusciva a darsene ragione, poiché egli non era attraente secondo le correnti regole mondane, non indulgeva in frivole chiacchiere, non si profondeva in elogi. Le sue opinioni erano irremovibili, le sue attenzioni semplici e tranquille. Forse il fascino di lui era da ricercarsi in quella sua sincerità, in quel suo equilibrio, nella integrità di carattere, insomma in tutto ciò che Miss Crawford era in grado di percepire, anche se non lo sapeva analizzare. Intanto non ci pensava granché. Per il momento le piaceva averlo vicino e ciò le bastava. A Fanny non faceva meraviglia che Edmund si recasse ogni mattina alla canonica. Vi sarebbe andata volentieri anche lei, se avesse potuto farlo senza esservi formalmente invitata. Le sarebbe piaciuto ascoltare l'arpa, restandosene inavvertita nel suo cantuccio, né le faceva meraviglia il fatto che al termine della breve passeggiata serale le due famiglie si separavano e il cugino trovasse opportuno riaccompagnare Mrs. Grant e la sorella a casa loro, mentre Mr. Crawford scortava le signorine del parco. Ma pensava che lo scambio di cavaliere era veramente deprecabile e se Edmund non era poi presente a tavola per tagliarle il vino, preferiva fare a meno di berne. Era alquanto sorpresa che gli riuscisse a trascorrere tante ore con Miss Crawford senza scoprire in lei altri difetti simili a quelli che già aveva osservato e che a lei venivano rammentati da qualcosa di molto simile ogni qualvolta la frequentava. Ma così stavano le cose. A Edmund piaceva parlare con lei di Miss Crawford, ma evidentemente gli sembrava sufficiente che, dopo quella volta, l'ammiraglio fosse stato risparmiato. E lei, Fanny, si faceva scrupolo di confidare le proprie osservazioni per tema che gli apparissero ispirate dal dispetto. Il primo vero dispiacere che le venne da Miss Crawford fu dopo che questa espresse il desiderio di darsi all'equitazione. Ne era stata invogliata fin dal suo arrivo a Mansfield, dall'esempio delle sorelle Bertram, e dopo che la conoscenza fra lei e Edmund era divenuta più intima, aveva indotto il giovane a incoraggiarla e a offrirle di fare i primi esperimenti con la sua mansueta giumenta, che era, fra quanti animali le loro due scuderie potevano offrire, la cavalcatura più adatta per una principiante. Con questa proposta non intendeva fare alla cugina nessuno sgarbo, nessuna offesa. Fanny non doveva perdere un solo giorno di esercizio. Bastava che la cavalla fosse condotta alla canonica mezz'ora prima che lei iniziasse la sua solita passeggiata. E Fanny, quando il progetto le fu sottoposto, lungi dal sentirsi trascurata, fu quasi sopraffatta dalla gratitudine per il fatto che il cugino chiedeva il suo consenso. Miss Crawford fece il primo tentativo, suscitando la generale ammirazione e senza cagionare alcun inconveniente a Fanny. Edmund, che le aveva portato la cavalla e aveva presieduto ad ogni cosa, tornò al park con l'animale in perfetto orario, prima che Fanny e il vecchio cocchiere, che l'accompagnava quando usciva a cavallo senza le cugine, fossero pronti a mettersi in cammino. La lezione del secondo giorno, però, non andò senza inconvenienti. Tanto era il piacere provato da Miss Crawford nel cavalcare che non avrebbe mai smesso. Attiva, senza paura e, benché minuta di costituzione robusta, sembrava nata per l'equitazione e, probabilmente, oltre al genuino godimento dell'esercizio fisico, contribuiva a renderla restia a smontare Il piacere che le veniva dalla presenza di Edmund e dalle sue istruzioni, nonché in misura anche maggiore la certezza di superare di molto coi suoi così rapidi progressi ogni altra creatura del suo sesso. Fanny era già pronta per uscire e in attesa, e Mrs. Norris incominciava a rimproverarla perché non si era ancora mossa, ma l'arrivo della cavalla non le veniva annunciato. Edmund non compariva e Fanny uscì per sfuggire alla zia e per andargli incontro. Le due case, benché lontane appena mezzo miglio, non erano in vista l'una dell'altra, ma allontanandosi una cinquantina di metri dalla porta d'ingresso era possibile portare lo sguardo oltre il parco e dominare la vista della canonica e di tutte le sue adiacenze, in lieve pendio oltre la strada che conduceva al villaggio, e Fanny poté vedere il gruppo riunito sul prato del dottor Grant. Edmund e Miss Crawford, tutti e due a cavallo, erano fianco a fianco. Il dottor Grant, la moglie, Mr. Crawford e due o tre stallieri stavano intorno e li osservavano. Aveva l'aria di una lieta riunione, l'attenzione di tutti concentrata su un unico oggetto. Evidentemente allegri, come diceva il suono delle voci animate che giungeva fino al suo orecchio. Lei, comunque, non fu rallegrata da quel suono. Si meravigliò che Edmund l'avesse dimenticata e provò una fitta al cuore. Non riusciva a distogliere lo sguardo dalla scena e così poté vedere tutto quanto si svolgeva sul prato. Dapprima Miss Crawford e il suo cavaliere ne fecero il non piccolo giro al passo, poi, su evidente suggerimento di lei, misero i cavalli al piccolo galoppo e per la timida Fanny fu sbalorditivo il vedere con quanta disinvoltura Miss Crawford sedeva correttamente in sella. Dopo alcuni minuti si fermarono. Edmund le era vicinissimo. Le parlava, evidentemente le diceva di correggere la posizione delle briglie, e così facendo le prendeva la mano. Tutto questo Fanny lo vedeva, e l'immaginazione suppliva a quanto le sfuggiva. Non si doveva meravigliare. Cosa poteva essere più naturale per Edmund del rendersi utile, del dimostrarsi cortese? Ma non poteva trattenersi dal pensare che dopo tutto Mr. Crawford avrebbe potuto risparmiare al cugino l'incombenza che si era assunta. Sarebbe stato senz'altro proprio confacente per lui istruire la sorella personalmente. Ma Mr. Crawford, con tutta la sua sbandierata buona indole, tutta la sua abilità nel campo dell'ippica, probabilmente non valeva nulla come istruttore e non aveva nemmeno una briciola della pratica gentilezza di Edmund. Intanto pensava che per la cavalla doveva essere piuttosto faticoso compiere il duplice lavoro a cui veniva sottoposta. Se lei era dimenticata, ci si doveva perlomeno ricordare del povero animale. Le sue apprensioni per se stesse e per la giumenta presto si calmarono alquanto nel vedere che il gruppo sul prato si disperdeva e che Miss Crawford, ancora a cavallo, ma scortata a piedi da Edmund, passava attraverso un cancello che apriva sui campi, dirigendosi verso il punto dove lei si trovava. Incominciò a temere di sembrare scortese e impaziente e ansiosissima di rimuovere da sé qualsiasi sospetto del genere mosse loro incontro. «Cara Miss Price!» esclamò Miss Crawford appena fu a portata di voce. «Sono venuta a porgerle personalmente le mie scuse per l'averla fatta aspettare, ma non ho assolutamente nulla da dire a mia discolpa. Lo sapevo che era molto tardi e che mi stavo comportando malissimo e così la prego. Deve perdonarmi, l'egoismo va sempre perdonato, come lei sa, visto che non vi è speranza di guarirlo.» La risposta di Fanny fu cortesissima ed Edmund aggiunse che, per parte sua, era convinto che Fanny non aveva nessuna urgenza di riavere la cavalla. «Vi è tempo più che sufficiente perché mia cugina faccia una passeggiata anche doppia del solito», disse, «e lei ha contribuito al suo benessere impedendole di mettersi in moto mezz'ora prima. Adesso stanno venendo su delle nuvole e non soffrirà il caldo di poco fa. Spero che lei non si senta stanca per il troppo esercizio. Vorrei si fosse risparmiata questa camminata fino a casa.» «Oh, niente mi può stancare, se non lo scendere da questo cavallo, glielo assicuro», rispose mentre smontava con l'aiuto di lui. «Sono molto resistente, nulla mi stanca, se non il fare ciò che non mi piace. Miss Price, le cedo il passo a malincuore, ma le auguro sinceramente di fare una piacevole cavalcata. E mi auguro di sentire sempre solo buone notizie di questo caro, delizioso bell'animale.» Il vecchio cocchiere, che era rimasto in disparte col suo cavallo, si avvicinò a Fanny e lei venne messa in sella. Insieme si avviarono verso un'altra parte del parco Il suo intimo malessere non fu certo alleviato dal vedere, guardandosi alle spalle, che gli altri due se ne andavano insieme per il sentiero che lungo il pendio della collina conduceva al villaggio, né il suo accompagnatore contribuì a ridarle serenità con i suoi commenti a proposito della sorprendente bravura d'Amazon e di Miss Crawford, che aveva osservato con un interesse quasi pari a quello di Fanny. «Fa piacere vedere una signora con tanta passione per l'equitazione», disse. «Non ne ho mai visto un'altra sedere in sella meglio di lei. Sembrava che la paura non la sfiorasse nemmeno. Molto diversa da lei, signorina, quando incominciò ad andare a cavallo. Saranno 6 anni alla prossima Pasqua. Dio mi benedica, come tremava quando Sir Thomas la fece mettere in sella». Miss Crawford fu elogiata anche in salotto. Le doti, la sua forza e il suo coraggio furono caldamente apprezzate dalle signorine Bertram. Prendeva piacere nel cavalcare proprio come loro, eccelleva precocemente nel farlo proprio come avevano fatto loro. Perciò la lodarono col massimo entusiasmo. «Ero sicura che avrebbe cavalcato bene», disse Giulia. «Ha la struttura adatta, la sua figura è armoniosa come quella del fratello». «Sì», aggiunse Maria, «e ha il suo stesso coraggio, la sua stessa forza di carattere. Penso proprio che la predisposizione all'equitazione abbia molto a che fare col carattere». Quando si separarono per la notte, Edmund chiese a Fanny se l'indomani aveva intenzione di cavalcare. «No, non so», fu la risposta. «No, se la cavalla ti occorre». «Oh, non ne ho bisogno per mio uso», disse lui, «ma tutte le volte che tu avrai voglia di startene in casa, penso che Miss Crawford sarà lieta di trattenerla più a lungo, per l'intera mattinata, insomma. Ha un gran desiderio di arrivare a cavallo fino al pascolo demaniale di Mansfield. Mrs. Grant le ha parlato di certi punti pittoreschi e da parte mia non dubito che sia perfettamente in grado di affrontare il percorso, ma una mattina qualsiasi andrà benissimo. Le rincrescerebbe immensamente di ostacolare i suoi progetti e certamente mancherebbe molto se lo facesse. Lei cavalca solo per divertirsi, tu per la tua salute». «No, domani non andrò a cavallo, certamente», disse Fanny. «Sono uscita assai di frequente in questi ultimi tempi e preferisco starmene in casa per un po'. Ormai sono forte abbastanza per fare una passeggiata a piedi». Edmund sembrò compiaciuto e ciò valse da ricompensa per Fanny. La gita progettata ebbe luogo la mattina seguente e ad essa parteciparono tutti i giovani, lei eccettuata. Fu gustata da tutti. E quando si svolse, e ancor più, quando venne rievocata durante la conversazione serale. Il buon risultato ottenuto dall'attuazione di un progetto del genere porta naturalmente a formarne altri. L'essersi recati al pascolo demaniale di Mansfield li invogliò a dirigersi, il giorno seguente, verso una qualche altra meta. Vi erano molti altri luoghi pittoreschi da mostrare agli ospiti e benché facesse un gran caldo, vi erano sentieri ombrosi che conducevano dovunque volessero andare. Una comitiva di giovani trova sempre sentieri ombrosi alla propria portata. 4 mattinate successive, mattinate splendide, furono impiegate in questo modo a mostrare i dintorni ai Crawford e a far loro gli onori dei punti più belli del paesaggio circostante. Tutto andava alla perfezione, tutto era gaiezza e buon umore, e il caldo non era che un fastidio da menzionare scherzosamente. E la cosa durò fino al quarto giorno, quando l'umore di uno dei componenti della brigata subì una brusca alterazione. Si trattò di Miss Bertram. Edmund e Julie erano stati trattenuti a pranzo alla canonica e lei era stata esclusa. Ora l'invito era stato pensato e fatto a quel modo da Mrs. Grant, senza alcun secondo fine, semplicemente per un riguardo a Mr. Rushworth, che, si supponeva, avrebbe potuto capitare al park in giornata, ma fu risentito dall'interessata come un vero e proprio insulto e le sue buone maniere furono messe a dura prova, mentre nascondeva a fatica il disappunto e la collera durante il ritorno a casa. Ma Mr. Rushworth non comparve e l'offesa fu risentita in modo ancora più cocente, visto che a lei non era offerto almeno il sollievo di sperimentare il proprio potere su di lui. Non le rimase che fare il broncio con la madre, la zia e la cugina e rendersi quanto più sgradevole possibile durante il pranzo, fino alla frutta. Fra le 10 e le 11, Edmund e Giulia fecero il loro ingresso in salotto, reduci dalla breve passeggiata nella fresca aria serale. Erano animati e allegri, al contrario delle 3 signore sedute ad aspettarli. Maria quasi non alzò gli occhi dal libro che leggeva. Lady Bertram sonnecchiava e perfino Mrs. Norris, alterata dal malumore della nipote, dopo aver fatto sul pranzo due o tre domande che non ebbero immediata risposta, sembrò quasi decisa a non aprire più bocca. Per alcuni minuti fratello e sorella, intenti come erano a celebrare la bellezza della notte e a descrivere il cielo stellato, non notarono nulla, ma quando cadde la prima pausa, Edmund, guardandosi in giro, chiese: «E Fanny dov'è? È andata a letto?» «No, non che io sappia», disse Mrs. Norris, «era qui un momento fa». La voce gentile della giovanetta giunse dall'altra estremità della lunga sala, annunciando che si era ritirata sul sofà. Mrs. Norris incominciò subito a rimproverarla. «È un'abitudine davvero stupida, Fanny, quella di oziare per tutta la serata su un sofà. Perché non puoi venire a sedere qui e occuparti di qualcosa di utile come facciamo tutte noi? Se non hai un lavoro tuo, posso dartene uno preso nel mio cestino per i poveri. C'è tutto il calicò comprato la scorsa settimana che non è ancora stato toccato. Posso dire di essermi quasi rotta la schiena a tagliarlo. Dovresti imparare a pensare agli altri e credimi, è un'abitudine scandalosa in una ragazza della tua età starsene sempre a ciondolare su un sofà». Prima che Mrs. Norris fosse arrivata a metà del suo discorso, Fanny era tornata al suo solito posto, vicino al tavolo, al quale sedevano le signore, e aveva preso in mano il lavoro a cui attendeva. Giulia, che era all'apice del buon umore grazie agli svaghi della giornata, le rese giustizia esclamando: «Direi, signora, che Fanny ozia sul sofà tanto poco quanto chiunque altro in questa casa». «Fanny», disse Edmund dopo averla osservata attentamente, «sono sicuro che hai mal di capo». Fanny non lo seppe negare, ma disse che non era molto forte. «Non posso proprio crederlo», replicò lui. «Conosco troppo bene la tua espressione. Da quanto tempo hai mal di testa?» «Oh, da un po' prima di pranzo, è il caldo, nient'altro». «Sei uscita con questo caldo?» «Uscita? Certo che uscita», esclamò Mrs. Norris. «Vorresti che fosse rimasta in casa con una giornata così bella?» «Non siamo usciti tutti? Perfino tua madre è stata fuori oggi per più di un'ora». «Sì, davvero, Edmund», aggiunse sua signoria, completamente destata dal tono aspro del rimprovero di Mrs. Norris. «Sono rimasta seduta tre quarti d'ora nel giardino dei fiori mentre Fanny coglieva le rose. E posso assicurarti che è stato molto piacevole, ma facevo davvero un gran caldo. C'era abbastanza ombra nel nicchione, ma posso dirti che al pensiero di uscirne per tornare a casa ho proprio avuto paura». «Fanny è rimasta al sole a raccogliere le rose, vero?» «Sì, e temo che saranno le ultime di quest'anno, poverina. Ha dovuto sopportare un bel caldo, ma erano tanto sbocciate che non si poteva aspettare oltre». «Sicuro, non si poteva fare altrimenti», disse di rincalzo Mrs. Norris, con voce alquanto raddolcita. «Mi chiedo se non si sia presa il mal di capo allora, sorella. Nulla dà il mal di capo più del chinarsi e rizzarsi ripetutamente stando in pieno sole. Ma oso dire che si sentirà meglio domani». «Se lei le desse il suo aceto aromatico da fiutare, io dimentico sempre di far riempire il mio flacone». «Ah, l'ho già preso», rispose Lady Bertram. «Lo ha preso dopo che è tornata per la seconda volta da casa sua, sorella». «Come?» esclamò Edmund. «Oltre a cogliere le rose ha fatto una camminata fin là? È andata a piedi a casa sua, signora? Attraversando il parco in un'ora torrida? E lo ha fatto per due volte? Non c'è da meravigliarsi che le dolga il capo». Mrs. Norris stava parlando con Giulia e non sentì. «Veramente, temevo che si stancasse troppo», disse Lady Bertram, «ma una volta che le rose furono colte, tua zia le volle per sé e così, capisci, si sono dovute portare a casa sua». «Ma vi erano tante rose da richiedere due viaggi?» «No, ma si dovevano mettere a seccare nella camera di riserva e sfortunatamente Fanny dimenticò di chiuderne la porta e di riportare indietro la chiave, così è dovuta andarci da capo». Edmund si alzò e prese a passeggiare avanti e indietro per la stanza dicendo: «E non c'era nessun altro cui affidare quell'incombenza? Nessuno tranne Fanny? Parola mia, signora, è stata una cosa molto mal fatta». «Davvero, non vedo come si sarebbe potuto farlo meglio», sbottò Mrs. Norris, rinunciando a fare la sorda, «a meno che non fossi andata di persona, certo, ma non posso trovarmi contemporaneamente in due luoghi diversi. E proprio in quel momento, per desiderio di tua madre, stavo parlando con Mr. Green della ragazza che cura i latticini per tua madre e inoltre Avevo promesso a John Groom di scrivere a Mrs. Jeffries per raccomandarle suo figlio e quel pover'uomo mi stava aspettando già da mezz'ora. Penso che nessuno abbia motivo di accusarmi di essermi mai risparmiata fatica in qualsiasi occasione. Ma realmente non posso fare ogni cosa allo stesso momento e in quanto alla passeggiata fatta da Fanny fino a casa mia per farmi un piacere, si tratta solo di un quarto di miglio. Non credo di essere stata sragionevole chiedendole di andare. Spesso io faccio quel percorso 2-3 volte al giorno, a tutte le ore, sì, e con qualsiasi tempo, senza fiatare. Vorrei che Fanny avesse metà della sua resistenza, signora. Se Fanny facesse esercizio più regolarmente non perderebbe le forze per così poca cosa. Sono parecchi giorni che non esce a cavallo e sono convinta che quando non cavalca dovrebbe camminare. Se prima fosse uscita a cavallo non le avrei chiesto di andare a casa mia. Ma ho pensato che dopo essere rimasta curva in mezzo alle rose le avrebbe fatto bene, perché nulla ristora di più di una passeggiata dopo una fatica di quel genere. E anche se il sole era forte, non faceva poi così caldo. Si è detto fra noi, Edmund, e a questo punto accennò significativamente col capo alla madre di lui, è stato il cogliere le rose e l'andare a zonzo per il giardino dei fiori che ha cagionato tutto il male. Temo proprio che sia stato così, disse la più candida Lady Bertram che aveva udito. Temo proprio che abbia preso il mal di capo là perché faceva un caldo da morire. Non avrei potuto sopportarne nemmeno un poco di più. Starmene seduta e chiamare Pug per tenerlo lontano dalle aiuole è stato quasi troppo per me. Edmund non disse altro alle due signore, ma senza parlare andò a un tavolo vicino sul quale rimaneva ancora il vassoio della cena, versò un bicchiere di madera a Fanny e la costrinse a berne la maggior parte. Lei avrebbe voluto rifiutare, ma le lacrime, stimolate dai sentimenti contraddittori che l'agitavano, le resero più facile inghiottire che non parlare. Per quanto fosse irritato con la madre e la zia, Edmund lo era ancora di più con se stesso. Nulla sarebbe accaduto se Fanny fosse stata tenuta in giusta considerazione. Ma per 4 giorni di fila era stata lasciata senza compagni, senza la libera scelta di un esercizio fisico alternativo, priva di una qualsiasi scusa da opporre a quanto saltasse in mente di richiederle alle sue sragionevoli zie. E lui ora si vergognava, pensando che per 4 giorni di fila Fanny non aveva potuto uscire a cavallo. Prese la ferma risoluzione che, per quanto ostico gli fosse contrariare un desiderio di Miss Crawford, la cosa non si sarebbe ripetuta. Fanny andò a letto col cuore pesante, come la prima notte del suo arrivo al park. Le condizioni di spirito in cui si trovava avevano probabilmente avuto la loro parte nell'indisposizione. Si era sentita trascurata e aveva lottato contro lo scontento e la gelosia in tutti quei giorni. Adagiata sul sofà, dove si era ritirata per sottrarsi agli occhi di tutti, aveva sofferto dentro di sé una pena assai più intensa del male fisico. E l'improvviso rivolgimento causato dalla sollecitudine di Edmund ora le rendeva quasi impossibile il sostenere se stessa.